in primo piano. Grazie Alessandro. Oggi i giornali aprono prevalentemente, ma non tutti, con le notizie relative all'incontro fra Sarkozy e Berlusconi. Il presidente francese e il premier italiano hanno raggiunto un accordo di ampia portata che ha come materia principale il ritorno al nucleare per l'Italia, grazie alle forniture di centrali da parte della Francia del gruppo Areva. Come viene presentata la cosa? Il giornale, che come sapete appartiene alla famiglia del Premier, intitola "Ritorna il nucleare, ecco come sarà". La Stampa: l'Italia, 4 centrali nucleari, firmata l'intesa fra Berlusconi e Sarkozy, la prima pronta tra 10 anni. La Repubblica: Berlusconi, torniamo al nucleare, patto con Sarkozy. E così il Messaggero: nucleare, intesa Italia-Francia. E poi quasi tutti gli altri giornali. In primo piano i tempi. Quando avremo la prima centrale nucleare? Abbiamo detto, secondo la Stampa, la prima entrerà in funzione fra 10 anni. Secondo gli altri giornali, le prime 4 centrali, quindi anche le successive 3, prenderanno fino al 2025. Quindi, se noi abbiamo un po' di memoria, ricordiamo che l'Enel aveva detto che sarebbe stata pronta in 7 anni a farle. Vediamo che gli anni invece di 7 sono dai 10 ai 17. Perché? Perché l'iter di queste costruzioni è molto faticoso. Ma il nucleare ci interroga anche da altri punti di vista. Il primo è: dove verranno costruite queste centrali nucleari? E lo chiede polemicamente Chicco Testa sul Riformista. Chicco Testa è stato un leader dell'ambientalismo italiano che negli anni '80 fece interrompere con un referendum abrogativo possibilità di andare avanti con il nucleare in Italia. Rimase solo la possibilità di fare ricerca, e chi poi è diventato presidente dell'Enel adesso fa il banchiere per la Rothschild. Ecco, Chicco Testa dice: bene, ma ora Silvio ci dica dove le mette. Qual è la risposta che abbiamo finora? Sono risposte ancora un po' generiche. Repubblica ci dice che con un intervento nella cronaca ci dice che i siti possono essere fino a 34, quindi entro una lista di 34 siti, ci dice Ettore Livini, dovranno essere scelti i 4 che ospiteranno effettivamente le nuove centrali nucleari. E secondo Livini questi siti saranno poi probabilmente Trino Vercellese, Caorso, sono due siti lungo il corso del Po, Montalto di Castro, che è in provincia di Viterbo in riva al mare, e il sito Isola Liri Garigliano in provincia di Caserta. Come vedete sono tutti siti vicino a grande disponibilità d'acqua, perché questo esige la produzione nucleare. Un giornale che dovrebbe essere bene informato in questa materia, e cioè Il Giornale, invece propone una lista di 9 siti che comincia anche questa con Trino, Vercellese in provincia di Vercelli naturalmente, e poi altri 8, ve li leggo: Monfalcone, provincia di Gorizia, Chioggia, provincia di Venezia, Ravenna, Termoli nella zona di Campobasso, Mola nel Barese, Scanzano Ionico in provincia di Matera, Palma in provincia di Agrigento e Oristano. Vedremo che cosa si deciderà. Nel frattempo l'ulteriore domanda che ci dobbiamo porre è: quanto ci costerà il nucleare? La risposta ci viene da un articolo di Maurizio Ricci su Repubblica che si intitola "Radiografia del business atomico", e Maurizio Ricci ci dice che l'una per l'altra le 4 centrali costeranno 20 miliardi di euro, che è una cifra ragguardevole. Il nucleare, come si sa, richiede dei grandi costi di investimento per partire e poi invece dovrebbe avere dei costi di esercizio molto più bassi delle centrali alimentate in altra maniera. Maurizio Ricci rispolvera una delle riserve classiche che accompagnano l'investimento nel nucleare in questa fase della ricerca nucleare. Maurizio Ricci dice: se tutto andrà bene, nel 2030 dovrebbero arrivare i reattori di quarta generazione, quelli, per dirla in breve, che non producono scorie. Questi reattori di quarta generazione non sono quelli di cui si sta parlando adesso. È opportuno partire, come da scaletta, fra il 2020 e il 2025, prosegue Ricci, con reattori destinati a durare 50 anni, ma che dopo 5 anni sarebbero già obsoleti. E qui siamo davanti all'eterno quesito se il meglio sia nemico del bene o sia effettivamente meglio. Un punto che vi posso lasciare alla vostra riflessione, così c'è un argomento, avrete un argomento con cui misurare l'evoluzione di questa storia, è che il nucleare è economicamente competitivo con il petrolio a $70-80 al barile. Oggi il petrolio è a $40 e quindi oggi il nucleare non è competitivo, è un modo più costoso di produrre energia elettrica. Però il petrolio è stato anche a $100-120 e quindi in quel caso il nucleare sarebbe stato un modo di produzione estremamente competitivo. Va quindi detto che quanti, come per esempio il quotidiano Libero, ci promettono che sarà dimezzato il costo delle bollette, probabilmente esprimono un desiderio, un sogno, ma non una realtà, perché credono, confrontano il costo della bolletta in Francia, dove praticamente tutto è nucleare ed è nucleare già amplissimamente ammortizzato, con invece quello che sarà il costo della bolletta italiana, che avrà un nucleare che fornisce soltanto un pezzettino della produzione nazionale ed è di nuova costruzione e quindi carico di tutti i necessari oneri di investimento. L'altra notizia molto importante della giornata è il discorso del presidente americano Obama ed è a questa notizia che il Corriere della Sera dedica il suo titolo centrale di apertura. È Obama e la crisi, ce la faremo. Banche, New Deal, ritorno dello Stato, il discorso del presidente USA al Congresso. Ecco, Obama fa una cura di ottimismo al suo paese, bisognerà vedere se questa cura è una cura omeopatica o se è una cura reale. Vediamo in sintesi che cosa scrive il Corriere. Dice: gli Stati Uniti hanno dovuto affrontare sfide anche più grandi della crisi finanziaria in corso, ma alla fine sono riusciti a vincere. E anche stavolta i giorni migliori devono ancora venire, dice Obama. È stato questo il messaggio lanciato dal presidente Barack Obama nel suo primo discorso davanti al Congresso in seduta plenaria. Ecco, un dato interessante. In questo momento Obama gode di una straordinaria popolarità. Secondo i sondaggi riportati dal Corriere e anche da altri giornali, il suo indice di popolarità ha raggiunto il 68%, che è paragonabile a quello di George Bush padre, non George Bush figlio, nei suoi momenti migliori. Prima di Bush, e questo è un dato molto importante, aveva parlato con, direi, più maggior riferimento alla realtà, il presidente della Federal Reserve Ben Bernanke. Il Corriere dice, riferisce il suo discorso, la contrazione dell'economia americana è severa, ma il 2010 potrà essere un anno della ripresa. Wall Street si è creduto più 3,32%. Ma come sempre, questo tipo di previsione è condizionata al fatto che si verificano alcuni fatti. Il fatto principale che si deve verificare per poter sperare, ci dice il Sole 24 Ore nella corrispondenza da New York del Mario Platero, è ripresa possibile nel 2010, cioè fra 3 anni, ma solo se i mercati verranno stabilizzati. E questo è il punto. Sono stabilizzati i mercati? Le notizie, come sempre in questi giorni, sono contraddittorie. Mentre Wall Street riprende a correre con le banche, il tesoro americano sta per salire al 40% di Citigroup, l'avevamo notato ieri e oggi ne abbiamo la conferma, ma quel che ci colpisce, in un altro articolo del Sole 24 Ore a firma di Marco Valsania da New York, è che l'AIG, che è la più grande compagnia di assicurazioni del mondo quanto dimensione, non più quanto valore perché era finita praticamente a zero, chiede nuovi aiuti, ha bisogno di altri 150 miliardi di dollari dallo Stato. L'AIG, la grande compagnia di assicurazione, già ripetutamente soccorsa dall'amministrazione americana, ha bisogno di un altro salvataggio. E questa volta il governo potrebbe assumere un ruolo esplicito non solo nella proprietà del gruppo, come è già avvenuto, ma nel controllo di grandi attività operative. Quindi, se con Citigroup negli Stati Uniti abbiamo il ritorno, la comparsa per la prima volta dello Stato banchiere, con AIG abbiamo lo Stato assicuratore. D'altra parte questa compagnia, dopo il primo intervento di salvataggio, ha accumulato in un solo trimestre perdite superiori ai 60 miliardi di dollari. Da questo punto di vista, quindi, bisognerà guardare con una certa scetticismo, mi pare, agli statement, alle dichiarazioni di intenti che vengono dagli Stati Uniti circa l'intervento o meno dello Stato. Bernanke, mentre fa tutte queste cose, dice che non sarà prevista nessuna nazionalizzazione. Nazionalizzare non serve, non serve farlo a tappeto. Queste sono le dichiarazioni, questi sono i fatti. Due notizie cruciali. Oggi il governo italiano approverà finalmente le obbligazioni speciali in soccorso al sistema bancario. Verrà firmato oggi, scrive Rossella Bocciarelli sul Sole 24 Ore, dal ministro dell'Economia Giulio Tremonti, il decreto che dà attuazione all'articolo 12 del decreto legge anticrisi e istituisce i cosiddetti Tremonti Bond. Ne avrete già sentito molte volte parlare. Queste obbligazioni speciali, che sono una quasi capitale, serviranno alle banche per essere un po' più solide e per poter confermare il credito al sistema delle piccole e medie imprese, specialmente nei prossimi 3 anni. Avevamo parlato prima del problema nazionalizzazione o meno, sì, no, le parole e i fatti negli Stati Uniti. In Italia e in Francia i due premier, i due capi dei paesi, Berlusconi e Sarkozy, hanno confermato all'unisono che qui di nazionalizzazioni non si dovrebbe parlare. Possiamo prestare loro una fede maggiore di quella che prestiamo agli Stati Uniti da questo punto di vista, perché le condizioni delle banche francesi e italiane sono decisamente più solide. Quali saranno comunque le prime banche ad approfittare dei Tremonti Bond? Ecco, il quotidiano MF fa 4 nomi. Si tratta di Intesa, di Unicredit, anche se, precisa Roberto Sommella, anche se Unicredit non ha ancora deciso se li emetterà in Italia o in Austria, il che è un dettaglio non irrilevante perché andrebbero a gravare su bilanci di paesi diversi. Terza banca il Monte dei Paschi, quarta banca il Banco Popolare. Secondo alcune fonti, conclude Sommella il suo articolo, secondo alcune fonti bancarie, la Banca d'Italia dovrebbe spingere praticamente tutte le banche, tuttavia, a chiedere l'utilizzo di questi strumenti, salvo rare eccezioni di banche molto capitalizzate come Mediobanca, che ieri, per bocca del suo amministratore delegato Alberto Nagel, ha già reso noto che non accederà ai Tremonti Bond. Mediobanca, del resto, ieri ha approvato il suo bilancio, che costituirà un po' un modello anche per molte altre società ricche di partecipazioni come Mediobanca. Mediobanca ha svalutato molto e rispetto al primo semestre dell'esercizio scorso, quando aveva guadagnato 650 milioni, quest'anno ne ha guadagnati soltanto 100. Vedremo in seguito se le altre società useranno gli stessi criteri nel trattare le proprie partecipazioni. Ma veniamo a notizie di cronaca. Il Corriere mette in primo piano un delitto che è avvenuto a Milano. Gang cinese a Milano ucciso con il machete. La cronaca affidata ai colleghi Focarete e Giuzzi dice che un giovane cinese di 22 anni è stato ucciso all'interno di una discoteca milanese da un gruppo di connazionali che hanno fatto irruzione armati di coltelli e di machete durante una festa privata. L'importanza di questa notizia, al di là ovviamente del fatto di sangue, è che si sospetta che sia partita una guerra di mafia, protagonisti cinesi, in Italia. E questo è un fatto piuttosto serio perché, come sapete, la mafia cinese è una realtà molto ramificata e forte. Un'altra notizia che ci può incuriosire è il bilancio del Festival di Sanremo, condotto, come avrete visto, da Bonolis, e lo fa La Stampa in un articolo molto documentato di Paolo Festucce. E in questo resoconto ci dice che l'audience ha avuto un grandissimo balzo rispetto al 2008. Siamo arrivati a un ascolto medio di 10 milioni e 126 mila teleascoltatori e contro i 7 milioni dell'anno precedente. Quindi un audience che è balzata dal 36 al 47%. Ma, e questo è il dato interessante, l'introito pubblicitario è stato di soli 15 milioni e mezzo di euro. Nella scorsa edizione la cassa era andata decisamente meglio, nonostante la minore audience. Si era parlato di 18 milioni. Altre notizie rilievo sono direi i commenti che vengono fatti alla politica in questo momento, e noi abbiamo l'editoriale di Giovanni Sartori sul Corriere della Sera, che va alle radici, cerca di andare alle radici del tracollo del Partito Democratico. L'editoriale si intitola Una sconfitta cercata a lungo, e Sartori, che è uno dei più importanti politologi italiani, concede: l'altro giorno l'elezione di Dario Franceschini a nuovo segretario del PD è stata una decisione sensata e forse l'unica possibile, ma il salvataggio viene rinviato a elezioni primarie che dovrebbero spazzare via la vecchia nomenclatura e miracolosamente scoprire nuovi leader. Proprio qui si esercita lo scetticismo di Sartori, che non crede alle primarie, ma pone al Partito Democratico due domande di fondo: come affrontare la crisi economica senza avere la CGIL, che lui considera una palla al piede, e l'altra domanda è come sciogliere il collateralismo con la magistratura. Fermo restando, dice Sartori, che l'indipendenza dal potere giudiziario è sacrosanta, resta il fatto che gli italiani sono indignati per la sua lentezza e inefficienza della giustizia. Prodi si vanta di aver vinto due elezioni, allora ci spieghi perché in vittoria non abbia alzato un dito per aiutare e anche costringere la giustizia a funzionare. La sinistra fa bene a difendere il potere giudiziario dagli assalti interessati di Berlusconi, ma fa male a non difendere un cittadino così mal servito da una giustizia, diciamolo pure, ingiusta. Grazie.